Per prima cosa, mettetevi comodi. All'inizio è meglio che vi sdraiate sul vostro letto o su di un divano, con le gambe e la testa in posizione comoda. Assicuratevi che mentre vi rilassate, sciogliendo i muscoli, la testa rimanga sorretta, in modo che non possa assumere una posizione scomoda. Non c'è bisogno che alcun muscolo sia in tensione per mantenere la posizione. È consigliabile che la stanza sia in penombra. Staccate il telefono per evitare distrazioni. Ora siete pronti per cominciare. È la terza parte di Eclettica con in voce Giulio Caperdoni, che vi ricorda che è la settimana in cui si iniziano a mettere in palio i biglietti di concerti che ci saranno più o meno fra un mese. Vedremo per quanto li terrò in palio e quando invece saranno completamente spariti, ritirati da chi vuole andarli a vedere gratuitamente grazie ad Eclettica, scrivendo a giulio@radiorockfm.com. Sto parlando degli ex Walkabouts, Chris and Carla, il 23 a Forlì al Naima Club, il 24 a Roma, La Palma, e il 25 a Grandate, che è in provincia di Como, al Freak Life Club. Lo stesso indirizzo di posta, ve lo ricordo ancora una volta, giulio@radiorockfm.com, è quello da utilizzare nel caso ancora non lo siate, per iscrivervi alla lista nera di Eclettica. L'altro indirizzo internet importante per quanto riguarda questa trasmissione radiofonica e myspace.com/eclettica. Da una lettera di Jurjen Sibelinga a sua moglie Irina nell'estate del 1937. La casa è nascosta nella penombra dei boschi, come una conchiglia sul fondo del mare. Tra i muri aleggia un mormorio di vento che fruscia nelle fronde, di gocce di pioggia sulla sabbia, dell'invisibile fuga di animali tra i folti cespugli. La casa, su tre lati, è divisa dal bosco da un profondo fossato coperto di lenticchie d'acqua. Un ponte conduce al cortile interno, un selciato di lisce pietre grigie tra le quali spuntano alti ciuffi d'erba. Le finestre catturano il riflesso degli alberi e risplendono del loro stesso verde. L'edera si arrampica sul muro e sul tetto e sulla balaustra del terrazzo. Lì cresce una selva di rose. Questo era l'incipit della Fonte Nascosta di Ella Hasse. I'm was thinking about another time, still in my mind. Well, I used to know a little girl high on this world. Your baby loves you more than you know. Raised on revelry and rock and roll. Let's go on the radio. Well, we never had a lot of cash, but we love those kids. Some say that she missed the boat, but she just burned the bridge. The angels love you more. Talk about astrology. She was born in June. She danced with strangers and celebrities, empty stars and the full moon. I was singing about the universe for what it's worth. Or the one about the phoenix bird that died and returned. Angels love you more than you know. Raised on robbery and rock and roll. Moving to the motor city soul. Moving to the motor city soul. To go on the radio, on the radio, on the radio. The angels love you more on the radio, broken radio. The first rule of Fight Club is: you do not talk about Fight Club. The second rule of Fight Club is: you do not talk about Fight Club. Third rule of Fight Club: someone yells stop, goes limp, taps out, the fight is over. Fourth rule: only two guys to a fight. Fifth rule: one fight at a time, fellas. Sixth rule: no shirts, no shoes. Seventh rule: fights will go on as long as they have to. And the eighth and final rule: if this is your first night at Fight Club, you have to fight. Ride you down the telephone, and just like you, I dark room full of disgrace. And in this world there's no place for your useless words. Your time is fading now, and your life is a tired flame that cannot burn without me. So don't speak, just say a word. Cause è il nome della band, è un trio tutto italiano. Home is where the heart is, il titolo del loro album che esce per la Manzanilla grazie alla distribuzione Goodfellas. Ma era già la terza traccia dell'eclettica di quest'oggi, perché ce ne siamo ascoltati subito prima una che vedeva assieme Jess Malin, che è riuscito a convincere Bruce Springsteen a cantare con lui nel suo nuovo album Glitter in the Gutter il brano dal titolo Broken Radio, e prima ancora invece un'assoluta novità che sarà oggetto anche di pillola in settimana, ovvero sia il trio electropop delle Client, che esce con una nuova prova per l'etichetta Out of Line, di cui c'è un singolo a precedere questo nuovo album, album dal titolo Heartland e singolo dal titolo Drive. La cosa che mi ha stupito è vedere prima di tutto Busta a rifare uno dei remix del singolo in questione, e la seconda cosa è con piacere scoprire quanto bene abbia lavorato. E quindi io ho deciso di trasmettere il brano non nella sua versione originale da parte delle Client, ma proprio il Dobro Love Mix by Busta del brano intitolato Drive. Tutto questo succedeva ormai 15 minuti fa, e oggi siamo già a metà di questa trasmissione e proseguiamo con un'altra band italiana dopo esserci ascoltati gli Home. Questi si chiamano Muriel, vengono da Firenze, si fanno dare una mano da Paolo Benvenu e ci fanno ascoltare il pezzo dal titolo Stagioni. Come ombra che segue i tuoi passi, come ombra. Ogni parola Questo è vero e proprio pop rock, il pop rock dei Blackfield che arrivano alla seconda prova, infatti è proprio Blackfield 2 il titolo di questo disco che esce per la Snapper, che vede assieme Steven Wilson, quindi è un suo side project dove Steven Wilson è ovviamente la mente, il chitarrista, il cantante, il produttore dei Porcupine Tree, assieme a David Geffen, che invece è un artista israeliano, un musicista israeliano che fra le sue collaborazioni ha anche per esempio quelle con i Belen Sebastian o gli Elbow, ma soprattutto è una vera superstar in patria. Once è il titolo del brano che ci siamo ascoltati, uscito dal disco, pubblicato nel disco, uscito nel mese di febbraio. Più o meno l'ordine avrebbe dovuto essere questo. Chiudiamo questa terza parte di Eclettica con la musica che proviene da quella terra all'estremo nord della Norvegia, della Svezia e della Finlandia, da cui hanno le loro origini Sara Mariella Gaup, 23 anni, e Laura Sombi, 26 anni, cioè il nucleo della band il cui nome è Ajagas, che nell'idioma lappone è quello stato mentale tra il dormire e lo stare svegli. E la loro intenzione con la loro musica, come già vi ho detto più di una volta, è quella di salvaguardare la tradizione della tribù Sami, della Lapponia appunto, che sono giunte ormai ad un numero di sole 60.000 unità. Ajagas che arrivano a noi grazie alla Ever Music, che noi ci ascoltiamo con la solita Moon Jamun. Eclettica, fine della terza parte.